La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Data Center, Trust Services e tecnologie cloud enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. Passione, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Gelo. Se io dovessi fare una classifica dei grandi misteri della vita, al primo posto probabilmente metterei il mistero che ruota attorno alle relazioni umane, che sembrano semplici, invece sono complesse, sembrano prevedibili, ma sono comunque uniche e irripetibili. Si intrecciano la razionalità, il sentimento, è difficile distinguere l'uno dall'altro. La storia di oggi parla di questo, in realtà la storia di oggi parla di tutto quello che ruota attorno alla vita, anche attorno alla vita di coppia, alla vita amorosa, e qui bisogna liberarsi da ogni pregiudizio e lasciarsi trascinare all'interno di questa storia che sembra unica, ma che forse unica non è. In una vicenda come questa comunque è facile avere opinioni, ma è molto difficile tracciare una linea tra il giusto e l'ingiusto, guardare oltre la facciata. E sì, perché oggi non raccontiamo una storia come le altre, stiamo per addentrarci nel terribile mondo di una donna, Victoria Henao, la moglie del più pericoloso narcotrafficante di sempre, la moglie di Pablo Escobar. Molti bambini sognano di fare il pompiere o il medico da grandi. Pablo invece voleva diventare ricco. In soli 10 anni ha costruito l'industria più redditizia della storia. Non sarà l'uomo più bello o elegante, ma sicuramente è il più determinato. Donne, quanto conoscete l'uomo col quale dividete la casa, il letto e tutto quello che in genere si divide quando si forma una coppia? Beh, non potete rispondere a questa domanda, ma qui siamo agli estremi. Come si fa a vivere a fianco di un mostro senza fare nulla? E chissà quante volte Victoria si sarà sentita rivolgere domande simili a questa. Attenzione anche qua, la realtà è diversa dall'apparenza e la logica vorrebbe che la si classifichi come complice o come vittima, a seconda che la vediate succube o meno di Pablo Escobar, ma non possiamo costringere questa donna in una di queste due categorie, sarebbe troppo sbrigativo. Essere la moglie di Pablo Escobar non può ridursi a un giudizio. Lei ha vissuto in un mondo e in un modo troppo diverso dal nostro, complicato, assurdo, è un mondo alla rovescia, immerso nell'odio, ma nel quale c'è stato spazio per l'amore. C'è molto, ma molto da dire sul legame che ha unito Victoria e Pablo. La nostra storia comincia nella Colombia degli anni 60, in un paese con elevatissimi tassi di corruzione, con la popolazione falcidiata dalla povertà, e in quegli anni nascono le FARC, le forze armate ispirate alla rivoluzione cubana, e insomma siamo in un ambiente veramente complicato. Qui, nel 1961, a Palmira, vicino a Cali, nasce lei, Victoria Eugenia Henao, famiglia benestante. Il padre Carlos, che lavora come rappresentante di prodotti dolciari, la madre Leonor, che gestisce un negozietto, Mario, il fratello maggiore di Victoria, che lavora invece per un uomo. Si chiama Pablo Escobar, si conoscono così. Victoria ha solo 12 anni quando lo vede per la prima volta, lui ne ha 23. In realtà non è il fatto degli 11 anni, è gli 11 anni 12-23. Però a lui non importa, comincia a offrirle dei passaggi in Vespa, poi le fa la corte. I genitori naturalmente non sono d'accordo, sia per l'età sia per il fatto che quel tipo non piace in famiglia, viene da una famiglia povera, è uno poco raccomandabile. Quell'uomo, dice Leonor la madre, accanto a te sembrerà sempre un autista, e si sbagliava, perché non sarà un autista Pablo Escobar. Victoria però è affascinata dai modi galanti di Pablo, regali, biglietti romantici, la chiama sempre con un nomignolo che le rimarrà addosso per tutta la vita, Tata. I genitori di lei stanno ostacolando la relazione, e allora Pablo organizza un matrimonio in gran segreto. Si sposano 29 marzo 76, lei ha 15 anni, lui 26. È stato il primo e unico amore della mia vita. Mi sposai con lui in chiesa, convinta che i voti matrimoniali dovessero essere rispettati. Del resto, ero nata nella cultura machista tipica della zona di Antiochia, in Colombia, dove alle donne si insegnava a seguire i propri mariti senza mai fare domande. Con gli anni, crebbi modellata da Pablo per diventare la moglie e la madre dei suoi figli, per non chiedere né mettere mai in dubbio i suoi comportamenti, per far finta di non vedere. Con queste parole Victoria descrive il suo matrimonio nel libro Ho sposato Pablo Escobar. Lui viene da un piccolo villaggio nel nord della Colombia chiamato Rio Negro, è il terzo di 7 figli, padre agricoltore, madre maestra elementare. Cresce a Medellín, la città più grande della Colombia dopo la capitale Bogotà. Qui inizia la sua carriera criminale: furti d'auto, rapine a mano armata in compagnia di un cugino, Gustavo Gaviria, e di un gruppo di amici. Poi collabora con i contrabbandieri, trasporta elettrodomestici oltre il confine. Nel 75, pochi mesi prima di sposare Victoria, entra nel giro della cocaina. Si capisce subito che ci sa fare. Nel giro di qualche anno dà vita al cartello di Medellín, arriva a controllare gran parte della droga che entra negli Stati Uniti, in Messico, a Porto Rico, in Venezuela, a Santo Domingo, perfino in Spagna. E diventare leader di un cartello del genere non deve essere una cosa facile, ottenuta in modo indolore, bisogna ammazzare per diventare così. E infatti il suo modo di procedere è semplice: plata o plomo, argento o piombo, chi si mette contro di lui può decidere se lasciarsi corrompere o morire. E così sono in ascesa sia la carriera criminale di Escobar sia il suo matrimonio. Per i primi anni Victoria vive in un sogno, non sa niente delle attività del marito, quantomeno non ne conosce i dettagli. Lui tiene separato il lavoro dalla famiglia, tratta la sua tata come una principessa, e lei peraltro è ancora molto giovane e molto innamorata. Fin dal primo giorno ero genuinamente convinta che Pablo si dedicasse al contrabbando, e non mi sembrava così male, perché era un'attività diffusa tra molti abitanti del quartiere che cercavano un modo per tirare avanti. Pablo non mi confessò mai in modo solenne, aperto, che si dedicava al traffico di droga, e non saprei nemmeno dire quando decise di passare dal contrabbando al narcotraffico. La verità è che Pablo non mi ha mai interpellata per questioni relative al lavoro. Secondo lui, io dovevo dedicarmi ad altro. Era una divisione di ruoli netta, insormontabile. Da una parte, lui e i suoi affari, e dall'altra, noi, la sua famiglia. Il 24 febbraio del 77 nasce Juan Pablo, il loro primo figlio. Lei è ancora in quarta liceo e Pablo al parto non c'è, è in carcere. L'anno prima lo hanno beccato con 26 kg di cocaina grezza nel bagagliaio dell'auto. Riesce a uscire grazie a minacce e bustarelle solo dopo 5 mesi. Una volta libero ricomincia i suoi traffici come se niente fosse successo. Stringe accordi con la mafia statunitense e in poco tempo arriva a guadagnare quantità di denaro inimmaginabili. Produce così tanta cocaina che per farla entrare in America è disposto a sacrificare dei carichi esca che distraggano gli agenti antidroga, cioè gente mandata allo sbaraglio con della cocaina, quindi gente che va in galera, e cocaina da confiscata semplicemente per fare arrivare dall'altra parte del paese dei carichi più grossi. Diventa così ricco che fa costruire un lussuosissimo ranch gigantesco tedesco chiamato Hacienda Napoles. Il nome è un omaggio al Capone, ritenuto un eroe da Escobar. La tenuta è a metà strada tra Medellin e Bogotà, ospita animali africani di contrabbando, ci sono elefanti, giraffe, ippopotami, rinoceronti. Su un arco all'ingresso della proprietà fa mettere come decorazione un aereo Piper identico a quello che ha usato per portare il suo primo carico di cocaina negli Stati Uniti, e poi dissemina il parco di statue di ogni tipo. Insomma, non è certo uno di basso profilo, fa costruire anche una pista d'atterraggio per aeroplani. A partire dal 1978 e per i 10 anni seguenti, Pablo divenne immensamente ricco e il suo potere economico gli permise, per prima cosa, di fare un'incursione nel mondo dell'automobilismo, partecipando alla Coppa Renault del 1979 e 1980. In seguito diede vita a opere sociali volte ad aiutare le classi meno abbienti e incoraggiò lo sport costruendo decine di campi da calcio. Fondò l'impero dell'Hacienda Napoles e non resistette alla tentazione di entrare in politica, dove sognava di arrivare molto lontano. Però c'è anche un risvolto, se vogliamo positivo. Pablo Escobar viene chiamato Robin Hood paisa, cioè il Robin Hood di Medellin. Regala soldi alle persone povere, costruisce scuole, parchi, campi da calcio. Lui ha vissuto in miseria da piccolo, vive con questo desiderio di riscatto, visto con gli occhi degli abitanti, dei poveri di quella zona. Il narcotraffico diventa un aspetto nobile, la cocaina diventa un prodotto come un altro, e alla fine si crea una psicosi favorevole nei confronti di Escobar. Anche Victoria vede le cose così, è condizionata da quello che dice lui, ma anche dal fatto che lei non vede mai la parte terribile, le violenze, i morti, vede solo la generosità del boss, che ovviamente non è gratuita, perché ogni casa, ogni campo di calcio, ogni donazione è un modo per diventare più popolare, cioè un passo che lo avvicina al mondo della politica. Sai quanto costa la campagna per candidarsi per il Consiglio di Stato in Colombia? 10 milioni di pesos. 10 milioni di pesos. E per diventare senatore credo tra i 100 e i 120 milioni di pesos. 1.500 milioni di pesos più o meno invece per il Presidente della Repubblica. Chi può spendere quella montagna di soldi? Il figlio di un contadino, un operaio? No. La politica è solo una questione di soldi qui. La democrazia è solo questione di soldi qui. Beh, noi siamo pieni di soldi. La politica è solo questione di soldi, dice Pablo nel film Escobar, il fascino del male, per portare avanti i suoi affari. E infatti il cartello di Medellin ormai ha bisogno di coperture politiche importanti, decidono di investire nelle campagne elettorali colombiane, danno soldi a tutti i candidati senza distinzioni, chiunque vinca, vincono anche loro. Denaro caldo, si dice in gergo, cioè finanziamenti enormi non rintracciabili. E per uno con la faccia tosta di Escobar c'è un passo da fare, che è ovvio: si candida lui stesso. 14 marzo 1982, dopo una campagna elettorale nella quale si presenta come eroe del popolo, Escobar viene eletto alla Camera dei Rappresentanti. Per Victoria è una sorpresa, ha sostenuto il marito, ma da lì a pensare che potesse accadere per davvero, insomma, ne passa di strada. La sera in cui viene eletto, Pablo torna a casa, si siede accanto a Victoria e le dice: amore mio, preparati a diventare la First Lady colombiana. L'ambizione di Escobar non ha limiti, più prende potere, più diventa inarrestabile, è veramente spregiudicato sul lavoro e nella vita privata, pensa in grande, sta sfiorando la megalomania. In questa società, avere un marito infedele non è un dramma, è qualcosa che si sa e che spesso si fa passare sotto silenzio. Si tratta di un segreto malcelato comune a migliaia di famiglie. Siamo state cresciute come donne che non vedono e non parlano, abituate a starcene lì, in silenzio, a rispettare i nostri doveri di mogli e di madri. Pablo spariva di tanto in tanto dicendo che doveva partire per lavoro, solo che questo lavoro includeva passare la maggior parte del tempo in compagnia di altre donne, giorno e notte. Per quanto formalmente lui si impegnasse per essere presente nelle questioni familiari più importanti. E le donne gli piacciono, e l'elenco delle donne di Escobar è molto lungo, ragazzine spesso comprate per qualche soldo da genitori poverissime, e altre volte invece arrivano le vere e proprie amanti, e Victoria lo sa, ne soffre, non dice nulla. Nei primi anni Ottanta lui frequenta una ricca statunitense, si chiama Wendy Chavarriaga, ma anche Luz Angela, che è la regina di Medellin, e poi c'è una giocatrice di pallavolo di Caldas. Quando ho accettato di sposarlo, continua a ripetersi Victoria, sapevo che avrei dovuto fare i conti con le sue bugie. Ogni tanto lei scoppia in scenate di gelosia, lui torna a casa, le dice che la signora Escobar è solo una, sa come farla sentire importante, e nella sua logica un po' delirante lui non sta mentendo, le altre donne sono un passatempo, Victoria e il figlio sono la famiglia, la cosa più cara che ha. Insomma, lei finisce sempre per accettare tutto in silenzio, ma c'è un boccone amaro che sta per arrivare, e questo sarà difficile da mandare giù. A un nome ben preciso: Virginia Vallejo. Signori, Virginia Vallejo. Virginia, come sta? Bene, quando grazie. È arrivata? Oggi. Piacere. Pablo mi presenta ai suoi soci del cartello. Mi sfoggia come fossi un trofeo, e so che tutti quanti mi stanno valutando attentamente. Insieme formano una nuova classe sociale, i narcomilionari. E io sono l'unica giornalista che ha l'accesso esclusivo al loro primo summit. La cosa più illegale che avevo mai fatto prima di quel giorno era parcheggiare in doppia fila. Ma se devo dire la verità, non mi ero mai sentita più al sicuro. Dopo essere stato eletto come rappresentante alla Camera, Escobar ha bisogno di uno spazio sui media. Conosce così Virginia Vallejo, è una scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva, modella, è una molto popolare in tutta la Colombia, una donna con esperienza nei media, ha contatti nell'alta società, dà forza all'immagine pubblica di Escobar. In cambio lui la paga profumatamente. In una lunga intervista che va in onda sui canali nazionali, lei chiede a Pablo di spiegare il suo progetto Medellin sin Tugurios, Medellin senza baraccopoli, un piano edilizio rivolto ai più poveri che Pablo finanzia personalmente. In pratica fa costruire un intero quartiere. In un murales all'ingresso si legge: benvenuti nel quartiere di Pablo Escobar, qui si respira pace. Vedete come è difficile separare il bene e il male. E intanto c'è Virginia, attraente, sensuale, lo ammette perfino la stessa Victoria, ha un'intelligenza magnetica, diventa per molti anni l'amante di Pablo, non è una scappatella come le altre, e per certi versi è seconda moglie, avrà un ruolo determinante nell'ascesa ma anche nella fine di Escobar. Il falco e il gabbiano. Vi stiamo raccontando la storia di un viaggio senza ritorno, il viaggio di Victoria Henao, moglie di Pablo Escobar, uno dei più spietati criminali della storia dell'uomo. Stiamo cercando di capire come sia possibile intanto sposare un uomo del genere, quello l'abbiamo capito, ma come sia possibile conciliare, insomma, l'amore per la vita familiare con la consapevolezza, diciamo, dell'attività del marito. Tutto parte da delle leggerezze, da un ragazzo che ti corteggia, che lo perdoni se ti dice qualche bugia, che lo perdoni se ti tradisce, visto che poi torna sempre da te e ti fa sentire una signora. Però poi adesso ci sono i crimini, c'è il narcotraffico, i morti tu non li vedi, e quindi vedi il tuo marito che regala soldi ai poveri come se fosse Robin Hood, fa costruire quartieri, pensa al suo popolo e migliora in effetti le condizioni di vita del popolo. Però la domanda è sempre per quella: si può essere veramente estranei al male quando si convive con il male? E questa domanda dovete tenervela stretta, perché è arrivato il momento di spiegarvi cosa voglio dire con la parola male quando parlo di Pablo Escobar. Siamo agli inizi degli anni Ottanta negli Stati Uniti, la cocaina è molto diffusa e questo vuol dire soldi, soldi, pressioni da parte del governo americano che chiede alla Colombia l'estradizione dei narcotrafficanti. E naturalmente Pablo è ancora alla Camera e quindi si scaglia contro ogni possibile accordo, si appella alla Costituzione. Quando il presidente Belisario Betancourt nomina ministro della giustizia Rodrigo Lara Bonilla nell'83, c'è uno scontro durissimo. Escobar viene messo pubblicamente sotto accusa e il ministro Lara Bonilla lo fa a pezzi in aula. La sera del 26 ottobre la Camera dei Rappresentanti revoca l'immunità parlamentare a Escobar, lo costringe alle dimissioni. È la fine della sua carriera politica, che è durata 15 mesi e 6 giorni. E poi arriva il colpo più duro. Marzo 1984, l'antinarcotici scopre e smantella Tranquilandia, la più grande fabbrica, la più grande cucina di cocaina al mondo. Ecco il servizio del giornalista americano Bob Simon. È stato il più grande sequestro di sempre. 13 tonnellate di cocaina dalla giungla colombiana, che smerciate nelle strade degli Stati Uniti, valgono 1,2 miliardi di dollari. L'agenzia antidroga statunitense a Washington ha definito l'operazione impressionante. Il campo era nelle profondità della giungla, 700 miglia a sud di Bogotà, ed era una vera e propria comunità, una comunità della cocaina, con 5 piste attrezzate per atterraggi notturni, una centrale elettrica, sofisticati strumenti di comunicazione, un arsenale impressionante e persino del bestiame. 13 tonnellate rappresentano il 25% di tutta la cocaina consumata negli Stati Uniti in un anno. 30 aprile 1984, un mese dopo lo scandalo di Tranquillandia, Vittoria a casa della madre, sono le 21.30, c'è una televisione accesa in sottofondo, si sente la sigla del telegiornale, è un'edizione speciale, annunciano la morte di Rodrigo Lara. Due uomini, se la una motocicletta, hanno raggiunto, hanno crivellato di colpi l'auto del ministro nella zona nord di Bogotà. Il telegiornale mostra il corpo di uno dei sicari morto durante l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine. L'altro è stato arrestato, si chiama Byron de Jesus Velasquez, è un membro di Los Priscos, un gruppo di criminali al servizio del cartello di Medellin. Insomma, è la prima volta nella storia colombiana che viene assassinata un'alta carica di Stato. Vittoria e la madre capiscono bene cosa significa, forse nel profondo sperano ancora che Pablo non abbia nulla a che fare con quella vicenda. Quando il piccolo Juan Pablo, che all'epoca ha 7 anni, entra nella stanza, trova le due donne in ginocchio che pregano in lacrime davanti al televisore. L'omicidio del ministro Lara sarà l'inizio della fine per Escobar e per la sua famiglia. Victoria a quel momento l'aveva immaginato più volte, sta cercando di prepararsi a quella che potrebbe essere la sua nuova vita, ma non è facile per niente. Incominciamo col dire che all'epoca Vittoria è incinta, è al 9° mese, la mattina del 3 maggio 84, 2 giorni dopo la morte del ministro, un amico di Escobar si presenta alla porta di casa. Pablo le manda a dire che è pericoloso rimanere lì, devono nascondersi da un'altra parte. E allora le due donne vanno a stare da alcuni amici, per qualche giorno l'unico contatto con l'esterno è la radio e la televisione, e i media non fanno che parlare dell'omicidio del ministro. Proprio durante i funerali il presidente Betancourt annuncia che firmerà il trattato di estradizione con gli Stati Uniti. Allora Pablo lascia il paese con la famiglia e vanno a Panama, dove il dittatore Manuel Noriega, faccia d'ananas, offre coperture politiche. Il 6 maggio dell'84, mentre l'esercito sequestra la hacienda Napoles, Escobar incontra alcuni rappresentanti del governo colombiano. Il cartello propone un accordo: chiuderanno i laboratori, ritireranno la cocaina dal mercato, utilizzeranno i loro capitali all'estero per aiutare a risanare il debito del paese, non so se mi spiego, il debito del paese, e in cambio chiedono l'amnistia. Sono richieste inaccettabili per un governo che si rispetti. Betancourt respinge pubblicamente la proposta. Allora Escobar e i suoi lasciano Panama e vanno in Nicaragua, poi tornano clandestinamente in Colombia. Il 6 novembre 1985 un gruppo di uomini armati occupa il Ministero della Giustizia colombiano e massacra metà dei giudici della Corte Suprema. È un gruppo guerrigliero marxista, però in realtà sono quasi sicuramente finanziati dal cartello di Medellin. Vengono distrutti i documenti relativi ai criminali estradabili e il narcotraffico ormai è diventato narcoterrorismo. Pablo e la sua famiglia vivono clandestinamente, ma non se la passano male perché hanno l'appoggio del popolo che li protegge. Viene messa una taglia sulla testa di Escobar e allora lui fa distribuire armi nelle baraccopoli e mette una taglia sui poliziotti e sui soldati, cioè paga chiunque uccida un poliziotto o un soldato. È una carneficina, peraltro aggravata dal fatto che entra in gioco, diciamo, il cartello di Cali. Un tempo erano alleati di Escobar, adesso vogliono prendere il suo posto. Il 13 gennaio dell'88 alle 5:13 del mattino c'è un'esplosione che squarcia la facciata del palazzo dove dormono Vittoria e i figli. È un'autobomba che è stata piazzata non dal governo ma dai rivali di Escobar, lascia un cratere profondo 4 metri e largo 10, un'onda d'urto così forte che crollano anche le case dall'altra parte della strada. Vittoria e i bambini escono miracolosamente illesi, ma come spiega poi lei nel libro Ho sposato Pablo Escobar, questa distruzione del palazzo ha per lei un significato particolare. Dopo la bomba, il mio rapporto con l'arte subì un duro colpo. Da 11 anni frequentavo le gallerie più esclusive di Medellin, Bogotà e di altri paesi, dove avevo potuto acquistare un numero consistente di quadri e sculture. Praticamente tutte le opere che possedevo erano esposte sui due piani dell'attico dell'edificio Monaco, casa mia. L'attentato lesionò gravemente la struttura e provocò seri danni alla mia collezione d'arte. Opere di grande valore furono sbriciolate dall'onda d'urto che si propagò per quasi un chilometro. Altre vennero ridotte a un colabrodo dalle schegge. Vi starete ponendo una domanda: nel mezzo di una guerra di narcotrafficanti ha senso che Vittoria si preoccupi delle sue opere d'arte? Ovviamente no, anzi è un elemento, insomma, che mostra una certa superficialità, però dice anche dell'altro, perché l'arte è il modo che Vittoria ha trovato per superare la solitudine e la paura, forse per assolversi con i soldi che ha. Lei può avere tutto quello che vuole, però non può uscire di casa perché ha paura che qualcuno uccida lei o i suoi figli. Escobar sempre più nemici e stanno finendo male tutti, giornalisti, agenti di polizia, politici. È il caso di Luis Carlos Gayan, candidato alla presidenza della Colombia, ucciso nell'agosto dell'89, oppure Cesar Gaviria, anche lui candidato alle elezioni del 90, che si salva solo perché perde un aereo, un volo di linea Avianza 203. Escobar l'ha fatto esplodere, ha fatto 107 vittime per cercare di colpirne uno che non era neanche sull'aereo. Insomma, alla fine il governo cede, vengono diminuite le pene per chi decide di consegnarsi e soprattutto viene annullato il trattato di estradizione. Pablo si fa arrestare nel 91 e prima però aggiunge un'ultima condizione: deciderà lui dove scontare la pena. E allora cosa fa? Fa costruire la cattedrale, che è una prigione extra lusso, e lui da lì continua indisturbato a gestire i suoi affari, protetto dallo Stato e dall'esercito colombiano. Il falco e il gabbiano. Pablo Escobar in carcere, la guerra con lo Stato cessa, tutto sembra calmarsi anche per Vittoria. Lui ha questa lussuosissima prigione, Escobar se l'è costruita lui, palestra, bar, discoteca, campo da calcio dove lui invita a giocare perfino Diego Armando Maradona. Settimana che è dedicata alle donne, agli affari, la domenica alla famiglia, Vittoria e i figli che passano assieme a lui la giornata come fossero una famiglia qualunque. Quasi sicuramente non lo sanno che Pablo, proprio dentro a quella stessa prigione, fa torturare e uccidere membri dei cartelli rivali. La notizia degli omicidi alla cattedrale giunse ai media, che accusarono di complicità il governo, minandone la credibilità. Decisero così di trasferire Pablo in un carcere militare. Il recinto del carcere era elettrificato, ma l'interruttore si trovava nella stanza di Pablo. Escobar fugge dalla cattedrale prima del trasferimento nel luglio del 92. Intanto però si sta sfaldando la squadra. Molti dei suoi uomini cominciano a collaborare col governo in cambio di una fedina penale pulita. Comincia la battuta di caccia, quella più letale, anzi la battuta di caccia più tremenda di tutti i tempi, direi, e guidata peraltro dai cartelli rivali, e chiunque sia stato vicino a Escobar diventa un bersaglio. Lui si nasconde in una casa bunker, la Casa Azzurra, impossibile da vedere all'esterno. Qui si ricongiunge con Vittoria e i figli, però lui non è più l'uomo di un tempo, è solo, è paranoico, vede traditori ovunque e peraltro nella maggior parte dei casi non si sbaglia neanche, gli rimane la famiglia, pochi fedelissimi, ha questa vita da segregato e Vittoria deve provvedere personalmente all'istruzione dei figli. Manuela, per esempio, la piccola ha 9 anni e non è mai potuta andare a scuola perché era troppo alto il pericolo che venisse sequestrata o uccisa nella Casa Azzurra. Peraltro loro non rimarranno molto tempo. Pablo invita Vittoria a andarsene, sente avvicinarsi i suoi nemici, ha paura che qualcuno possa ucciderli. A questo punto nella nostra storia torna a farsi viva l'altra Virginia Vallejo, l'ex amante di Pablo. Che cosa hai fatto tu per me? Niente. Quando ti ho conosciuto avevo già una carriera, non lo dimenticare. E sono l'unica donna che ti ha veramente amato, senza pretendere da te mai nulla in cambio, al contrario di tua moglie. Oh, no, no, no, no, no, no. Non permetterti di paragonarti a mia moglie, non lo devi pronunciare il nome di Vittoria. Lei stava con me quando in tasca non avevo un peso. Tu mi avresti guardato pure allora, eh? Senza aerei, senza viaggi, senza shopping a New York, mi avresti guardato. Dimmelo, avanti, dimmelo. Il 27 novembre del 93 Pablo fa imbarcare Vittoria e i figli su un volo diretto in Germania, però il governo colombiano li intercetta, li fa tornare a Bogotà. È Virginia Vallejo che suggerisce questa mossa alle forze dell'ordine. Eh sì, perché lei è tornata, ma Escobar l'ha respinta, diciamo così, e una donna respinta diventa terribile. Lei sa che Escobar tiene alla sua famiglia, che preferirebbe saperli lontani ma al sicuro, insomma. Virginia indica alla polizia dove guardare. Il 2 dicembre Escobar chiama l'albergo nel quale è alloggiata la sua famiglia, parla con Vittoria e col figlio Juan Pablo. Sa che è rischioso, non gli importa più niente, la telefonata dura solo qualche minuto, ma è quello che basta per individuare la sua posizione. Poco dopo Pablo Escobar viene raggiunto dalle forze speciali dell'esercito. Muore colpito da diversi colpi d'arma da fuoco mentre sta tentando un'ultima disperata fuga sui tetti delle case di Medellin. Vittoria a questa versione non crederà mai, dice che il marito è più probabile che si sia suicidato, ma insomma poco importa. Pochi minuti dopo la morte, lo stesso telefono dal quale Juan, il figlio, ha sentito la voce del padre, comincia a squillare. Un giornalista avvisa la famiglia della morte di Pablo e Juan risponde: ucciderò chiunque lo ha ucciso. Ma è un ragazzino ancora, insomma, è un ragazzo di 20 anni al quale hanno appena ucciso il padre, possiamo capirlo. Poi ritratterà, però è evidente, insomma, che Escobar poteva essere un mostro per tutti, ma non per la sua famiglia. E chiunque abbia conosciuto Pablo Escobar conferma che per lui la famiglia era qualcosa di sacro. A modo suo li ha sempre amati fino alla fine. Sapeva di essere intercettato, ma non è riuscito a non fare quella telefonata per sentire sua moglie e suo figlio. A 33 anni Vittoria è la vedova più minacciata di tutta la Colombia. Deve negoziare la sua vita e la vita dei suoi figli con i nemici del marito. Cerca collaborazione nello Stato, le viene permesso di cambiare legalmente identità, diventa Maria Isabel Santos Caballero. Fallisce un tentativo, andare in Mozambico, e allora va a vivere in Argentina. Nel 2009 Juan Pablo, che è diventato Juan Sebastian Marroquín Santos, decide di raccontare la sua storia in un documentario, Pecados de mi padre, i peccati di mio padre, e lì lui chiede pubblicamente scusa per i crimini di Pablo. Vittoria ci mette 25 anni a prendere coraggio, alla fine decide di purificarsi in qualche modo, di ripercorrere la sua vita nel libro Ho sposato Pablo Escobar, e a spingerla in questa direzione non è solo il desiderio di far pace con se stessa, ma anche voler dire la sua a proposito di un altro altro libro scritto dalla sua rivale di una vita, Virginia Vallejo, e il titolo Amando Pablo, odiando Escobar. Sebbene la legge proteggesse il mio diritto in quanto moglie di non denunciare il padre dei miei figli, so che questa vita intera non mi basterà a chiedere perdono per non aver abbandonato e denunciato il mio stesso marito. Ero innamorata di lui e in virtù di questo sentimento ho fatto tutto ciò che era in mio potere per prendermi cura della mia famiglia e del mio matrimonio. Provo una tristezza e una vergogna infinita per l'enorme dolore che mio marito ha provocato e al tempo stesso soffro per le gravi conseguenze che le sue azioni hanno avuto sulla vita dei miei figli e sulla mia. La gente non ci guarda come persone, ma come l'estensione nel tempo della cattiveria di mio marito. Io sono sempre e soltanto la vedova di Pablo Escobar. Insomma, non è facile capire questa intricata matassa di sentimenti, tutto quello che ha provato Vittoria, quello che hanno provato i suoi figli, l'amore per un padre e un marito che è stato un marito devoto ma che per il resto insomma è stato artefice di tragedie ripetutamente, e poi c'è la paura e poi c'è il terrore per la vita che Pablo li ha costretti a vivere prima e dopo la sua morte. E essere una famiglia può voler dire molte cose, nel caso di Vittoria e Nao essere una famiglia ha voluto dire amare un mostro, ma forse anche donare a questo mostro il suo unico angolo di umanità. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Data Center, Trust Services e tecnologie cloud enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.